This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buonasera a tutti, siamo ancora dal vivo, siamo in compagnia del dottor Scarpa, del dottor Corrias e anche del sottoscritto. Sono Babe, siete su Radio Città del Capo. Sì, buonasera a tutti e a tutte. Nicola, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Sono un po' malato oggi, ragazzi. Sei giù di tono, Nicola? Sì, forse. Capita, Nicola, i primi caldi possono provocare questo, ma comunque... ce la possiamo fare. Dai, facciamo pompare un po' di neurosi perché non ce la posso fare. Beh, devo dire che siete abbastanza in tono con la trasmissione, c'è poco da dire. Questa sera abbiamo appunto già svelato Arcano, l'avete ascoltati, non so se li abbiate riconosciuti, erano i Neurosis del 90, quindi I primi poi sono evoluti tantissimo negli anni. Noi stiamo sempre nel nostro ristrettissimo arco temporale 1988-1993. E beh, ci sembra interessante perché i New Roses in questi anni sono passati da un gruppo hardcore metal a qualcos'altro. We'll be right back. 94 7 96 25. Se volete chiamarci, siamo su 348 76 49 289, mandarci degli sms 348 76 49 289. Questa è This Is Not An Exit, come tutti i giovedì sera facciamo la serata rock. Dopo Ferruccio ci siamo noi, a volte ci riusciamo anche ad intersecare. Questa sera un po' meno, anche se è un po' di new wave, come avete potuto sentire. Ferruccio concluso con un pezzo di Talking Heads, se non vado errato. Anche i New Roses erano riusciti man mano a buttarla dentro. Devo dire la verità, i New Roses li ho scoperti tardi, avevo sempre avuto una repulsa direttamente nei negozi di dischi, sì, andavo ancora nei negozi di dischi, dalle copertine. Le copertine mi sembravano la classica copertina dozzinale del gruppo metal, e invece no. Erano abbastanza orrorifiche, come ogni gruppo metal, buon gruppo metal, sa esprimere. E lo erano anche nei testi, nelle musiche, ma questo lo scopressi dopo. E soprattutto erano, come dire, oltre il solito, le solite tematiche dei gruppi metal, e anche oltre quelle dei gruppi hardcore. Venivano da entrambe le direzioni. Venivano da Oakland, da un territorio che era stato la culla dell'hardcore e anche di tanto metal, ma in quegli anni, come dire, stava un po' decadendo. Sì, che poi bisogna non confondere Oakland, quella californiana, con Oakland, la famosa città della Nuova Zelanda, dove si facevano le regate, famosa, no? Quella lì. Infatti proprio quel periodo era la capitale delle regate nel mondo, Nuova Zelanda e non solo. Tra l'altro vorrei ricordare che oggi, insomma, è una puntata un po' particolare, perché insomma è venuto a mancare in questi giorni il nostro amico Piero Santi, e insomma anche noi vogliamo ricordarlo. Insomma, vabbè, vogliamo aggiungere qualcosa sulla... Speriamo che gli piaccia. Un saluto a Piero e a tutti quelli che lo conoscono, lo conoscevano. You're mine, and it's a great day. Yeah. go on the mystic journey into your own self. It's not that you might meet conflict, it is that you will. Can't you feel it? It's a storm of lies. It's a storm of lies. Blizzard of lies. A hurricane of lies. A hurricane of lies. Every day. We've got you coming and going. We've got you coming and going. So many contradictory messages. You don't know what's going on. You don't know what's going on. You're crazy out of your mind. You don't know anything. You don't know what's real. It's real. c'è ancora qualcuno? Spero di sì, perché questa sera è una di quelle puntate efferate. Fa caldo e spero siate tutti a spasso. Ma se siete in giro per Bologna, siete in macchina per prendere del fresco, siamo ben contenti se ci ascoltate. E magari Neurosis vi piacciono, li avete visti dal vivo, ve lo consiglio caldamente, anche se ormai non sono più dei ragazzini. Riescono forse ancora ad evocare un'atmosfera messianica. Ovviamente non è una messa come tutte le altre, è una messa nera. Nera perché molto cupi sono sempre stati, sono diventati col passare degli album, mettendo a controllo tutta la rabbia tipica e la furia tipica dell'hardcore. Ed è sempre sembrato, fin dagli inizi, da quando l'ho ascoltato io perlomeno, erano già gli anni 90 inoltrati, qualcosa di estremamente controllato, qualcosa che rispecchiava forse una nevrosi, ma già chiamare un gruppo Neurosis, nevrosi vuol dire più o meno, da dizionario, se non vado errato, condizione di sofferenza della psiche provocata da disturbi, da condizionamento psichico, per lo più di decorso cronico, che si estrinseca con diversi sintomi, per esempio ansia, paure, coazioni, sintomi isterici, e con diverse caratteristiche, per esempio inibizione, insicurezza, labilità emotiva, conflittualità interiore. Thank you. Questi sono sempre Neurosis, non quelli sottofondo. Siamo sempre qua a This Is Not An Exit, con i Neurosis che ci accompagnano. I Neurosis che, oltre a evolvere stilisticamente, evolvono anche dal punto di vista strumentale. Acquisiscono un tastierista, tanto per far capire che non era proibito fare metal con le tastiere, invece era assolutamente considerato proibito dagli oltranzisti del metal e del punk. Loro lo tirano dentro, ma tirano dentro anche un grafico che comincia a creare tutto un immaginario da proiettare durante i concerti, e l'aspetto messianico cresce ulteriormente. Cresce perché rende molto più comprensibile il tutto. Ripeto, io li ho conosciuti tardi perché mi sembravano da lontano, perché non mi ci approfondì subito, il classico gruppo metal. Invece no, il fatto che anche solo volere dalla cassettina ascoltare i testi non era affatto banale, come in tanti altri gruppi hardcore metal, era paradossale, soprattutto per un gruppo hardcore tipicamente iperpoliticizzato, quindi dove il contenuto era importantissimo. Beh, insomma, le lyrics, i testi non si capivano, soprattutto l'alternarsi del duo cantato, i due cantanti, in parte era comprensibile, in parte no. E poi, comprando anche i CD, ti accorgevi che alcune canzoni non avevano i testi. A quel punto non era più solo una questione di foga, di velocità, come poteva essere per i Black Flag, che effettivamente andavano a razzo. No, perché poi i Neurosis rallentarono man mano, diventarono quello che poi sarebbe stato lo sludge metal, quindi ritmiche molto più rallentate, quasi cadenze da folk. Ma ancora, Scott Kelly, difficile comprenderlo, era un latrato. Steve Von Till, stessa cosa, dipende. Alcune trame si potevano anche intuire, altre no, erano nascoste dal rumore, dai suoni, ma probabilmente molto più volutamente era un modo esplicito di far capire che uno dei problemi, uno delle nevrosi principali che dovevano e volevano esprimere era quella della impossibilità di comunicare. We'll be right back.

22.03 minuti primi, sempre in compagnia del dottor Scarpa, del dottor Corrias. Ricordo 348-7649-289 se avete qualche ricordo, qualcosa da dire sui Neurosis, ma non solo. Neurosis che avevano un'altra grande capacità di ricreare probabilmente l'ambiente urbano dell'ennesima città. Inutile, lo ripetiamo spesso, ma l'America è un territorio piuttosto violento, non solo l'America. Ma l'America del Nord ha parecchie città, aree metropolitane molto molto violente. Oakland era una di queste. Penso fosse tra le prime cinque, forse la quinta città più violenta d'America. D'altronde, anche essa era stata un'ex fabbrica, città fabbrica. Ex perché i processi di deindustrializzazione degli anni Ottanta l'avevano fatta diminuire di popolazione, ma soprattutto avevano lasciato a spasso un sacco di gente. Aggiungete le tensioni razziali, le Black Panther nacquero a Oakland alla fine degli anni 60, le tensioni razziali si erano spente da pochi anni, insomma, come dire, è un ambientino di tutto rispetto. E Neurosis dal vivo, ma anche su disco, anche grazie all'utilizzo di voci registrate, di visual, di proiezioni che altri gruppi sperimentali avevano utilizzato in maniera molto più, come dire, efferata. Loro magari li usavano in maniera più facile, però per chi comprava un disco di questo genere era comunque una novità. E sembrava quasi un esperimento di sound design, roba che nel 93 non sapevo neanche cosa fosse. Ma poi, se avete visto qualche esperimento in giro, tipo quando misero la voce di Hitler lungo tutto il sistema di fonia pubblica che c'è nei bagni di Rimini, quelli da dove di solito vengono richiamati i bambini persi. Michelino è perso, è stato ritrovato, i genitori sono richiesti al bagno 51. Beh, a un certo punto un Roberto Paci de Loro, possiamo dire, fece uno esperimento con la voce di Hitler che avete appena ascoltato un piccolo breve estratto anche nel disco dei Neurosis. Ebbene, questo esperimento fece sì che dopo un quarto d'ora i telefoni della polizia municipale di Rimini praticamente saturarono. Beh, anche i Neurosis usavano questi effettacci. Ma nei bagni di Oakland com'era? Nei bagni di Oakland non lo so, però ricreavano bene una tensione, un'angoscia, una, come dire, io esco dalla metropolitana di Oakland di notte, magari non è esattamente il centro di San Francisco alle 2 di pomeriggio, dove lì sarà un po' il paese dei balocchi, non so se qualcuno c'è stato. Se invece qualcuno è stato a Oakland, mi è capitato, e ci sbagli uscita, la prima impressione che hai di notte non è proprio ops, ho sbagliato metropolitana, sì, anche, ma quando comincia poi a inoltrarti ti sembra una periferia, poi dici boh, arriverà al centro, no, non arriva, è molto grande, è molto periferico. In realtà no, Oakland è fatta più o meno così. Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well, that everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it? Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet, it all seems limitless. Are you lost? Dottor Corrias, domanda delle 100 pistole, ma perché nel metal si urla? Ma io non lo so, secondo me è un po' perché sono sordi. E in buona parte sono, hanno questa rabbia, io non capisco, non ho mai capito di dire. Eppure sono un po' di tempo che ascolto sta roba. Solo un po'? Sì, ma non possono cantare normalmente come tutti quanti, perché se la pigliano così tanto? Infatti è quello che mi sono sempre chiesto anch'io. Poi dicevo, ma forse saranno un po' arrabbiati, un po' furiosi. Ma comunicate bene, in modo che qualcuno vi possa capire. Io direi urlare non porta mai da nessuna parte, cioè innervosisce l'altra parte, insomma, in null'altro. Quindi dopo 25-30 anni, non lo so, 20 anni che lei, dottor Corrias, ascolta heavy metal, metalcore e quant'altro, non è ancora giunto a una conclusione. Non riesco proprio a capacitarmi, cioè più si urla e più sta gente viene apprezzata. Ma andate da uno psicologo, fatevi curare, cavolo. E con questa auguriamo buonanotte a tutti e a tutti. E ai Neurosis in particolar modo, visto che Nicola l'ha mandati proprio in pensione. D'altronde, nomen omen. Buonanotte a tutti, risentirci. Spero che vi sia piaciuta la nostra puntatina. Come dire, è stata efficace, quantomeno. Che sia stata efficace per voi. Buonanotte a tutti. Ciao Piero. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.